Con il tuo ideale proverai a tacere con la repressione, colpirai tra supponenze e mistificazione, proverai a fare male con le tue parole, non lo sai che più del freddo quelle fanno tremare, negherai perché è più facile non dimostrare, colpirai, dimmi che cosa salverai, ogni freccia mi della cenere sole su di me.